Avvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Tutto è pronto sullo schieramento di partenza, le 24 moto GP sono pronte per allungare sul rettilineo di Montmeló, dopo semaforo scatenate l'inferno. Di giù per terra. Aia, caduta di Crutchlow, è la seconda in momenti cruciali. Tutti quanti giù per terra. Nel cambio di direzione ha tagliato sempre cattivo sul cordolo. Che jolly, che jolly, che jolly, che jolly, che non è stato mamma un jolly. Mia, ha sbagliato completamente la staccata. Questa sarà una mazzata psicologica su Marquez, perché un altro punto a vuoto. Tutti quanti giù per terra. E giro, giro tondo, sta cadendo veramente il mondo. Dovizioso, no! Tutti quanti giù per terra! No! La caduta di Aleix Espargaró, scaricato nel ghiaione mentre era in quarta posizione. Tutti giù per terra, il mondo sta cadendo, ma perché non sta cadendo il mondo e sta cadendo anche il mondiale di MotoGP, questo è breve riassunto della nostra Claudia Schiattone di quello che è successo oggi al Montmeló in Catalogna. Io saluto subito Roberto Ungaro, direttore di Riders. Ciao direttore. Ciao, saluto tutti. Brava Claudia, perché è un'ottima Bello, regia. È stata, sì. Bello. 10 gradi in più di temperatura e protagoniste sono state le cadute. Sì. C'è chi ha mollato per la temperatura e invece chi ha mollato per uno sbaglio, Marquez, questa volta ancora una volta sotto pressione. Si è sentito dire che la Honda non riesce più a staccare e questa volta è lui che ha sbagliato. È agitato, sente la pressione, non è a posto, la moto non lo aiuta, però ha fatto davvero un errore. Sì, roba da Freud, sì. Seguaci di Freud, c'è qui anche Carlo Genta. Ciao Roberto. Ciao, ha Carlo. Aspettato Ciao. La fine della gara per precipitarsi in radio. 800 24 00 24, da adesso siete convocati. Chiamatevi, prenotate, vi dico che partiamo con la MotoGP, poi avremo un sacco di notizie di mercato di calcio da darvi, avremo un paio di ospiti un po' particolari, dobbiamo raccontarvi alcune cose che stanno succedendo intorno al Milan, quindi se siete interessati, poi dopo le 18 abbiamo qualche retroscena da raccontarvi, quindi 800 24 00 24. Però non potevamo non partire dalla quarta di Jorge Lorenzo. Poker di Jorge Lorenzo alla solita maniera. Cioè partiva dalla terza linea in prima fila, ha preso la testa e è andato a martello, bam bam bam, gli ha bastonati tutti. Valentino Rossi non ha mai dato l'impressione di riuscire a dargli fastidio. Jorge è un computer svizzero, quando vince la Biaggi, prende e va. C'è stato il fuoco di paglia ieri delle due Suzuki, ma perché era arrivato un motore iper performante, ma si sapeva che sul passo in gara non avrebbero potuto fare un granché. E quindi è partito davanti, non lo si è più visto. Ancora una volta dico, mannaggia Valentino che parte indietro, terza fila, perché sarebbe stato, avrebbe impiegato meno tempo per arrivargli sotto. Secondo me stava gestendo la gara Lorenzo, quindi oggi non ce n'era. Era lui che doveva vincere, ne aveva di più, Valentino poteva avvicinarsi, ma Jorge ha fatto un'altra gara, altra strategia, altro controllo della moto. E non ce n'è, adesso o la benzina o una rottura possono fermarlo a questo punto, perché però vale ragazzi, alla fine secondo è l'unico che può impensierirlo e calcoliamo che è partito dalla settima cartella. Sì, appunto, ha detto una cosa meravigliosa, Valentino ha detto averlo lì davanti e non poter lottare per la vittoria è stato un po' come l'asino con la carota. Assolutamente, ed è arrivato a un punto adesso, quindi pian piano vederselo avvicinare così ed essere inermi deve veramente essere dura psicologicamente da affrontare per Valentino. Però lo abbiamo detto la volta scorsa, deve velocizzare le prove, andare subito più forte, sì, ho capito, partire Robby, davanti. Però 1, 2, 3, 4, 5, esatto. 6, 7, 8 anche, diventa fisiologico. Sì, analizzate punto. Anche l'inizio della gara, moto conservatorio pieno, Vale comunque non riesce a esprimersi al meglio, viene fuori dopo. Sì. Perde tempo per passare un po' di piloti, ovviamente, un po' di compagni, ma all'inizio non è subito competitivo, inizia a martellare dopo. Però ragazzi, la dominante è questa, Jorge Lorenzo, secondo me è difficile che qualcuno possa fermarlo. Honda è vero che è in affanno, ma è Marquez che sbaglia, non diamo la colpa a un telaio, a un progetto, a una strada sbagliata, è vero che non lo assiste, però bene o male Pedrosa è lì e Marquez non è il campione arrivato, ha già dimostrato, l'abbiamo già detto, però si agita, lui ha fatto la staccata assassina, come diciamo noi, addirittura ha rischiato di buttare giù Lorenzo. Immaginatevi cosa voleva dire buttare giù Orghi in quel momento, veniva fuori un caso politico, sì, storico del paese. Assolutamente, anche perché Lorenzo adesso legittimamente sogna di poter staccare magari già dalla prossima occasione Valentino Rossi, la classifica numero dice uno del mondiale, 138 punti Valentino Rossi, 137 Lorenzo, 94 Iannone, 83 Dovizioso, altro che è finito per terra, lo abbiamo sentito prima, 69 esatto. Marquez, che ne ha esattamente la metà, e c'è questo duello tutto in casa tra Rossi e Lorenzo. Mi fate sentire cosa hanno detto oggi a proposito di questo duello mondiale. È certo che ha recuperato 28 punti in 4 gare, però è certo anche che Valentino sempre in gara, lui trova qualcosa, lui riesce a essere molto costante durante la gara. Oggi la verità è che ha fatto una gara di martello, uguale che la mia, è dovuto guidare meglio di mai. Lui viene da 4 vittorie di fila, quindi diciamo che il 51% ce l'ha lui, no? Però bisogna dire che ci sono passate 7 gare, già c'è un punto di differenza e spesso andiamo uguale, e quindi sarà interessante, ecco. Questi due protagonisti gli hanno anche chiesto se sono amici. Io non so se si possa essere amici con davanti 5 mesi per giocarsi un mondiale. Troppo, no? Si alza il muro di nuovo, esatto, nel box della Yamaha. Ricordatevi una cosa: il primo rivale è il compagno di squadra. Ma perché certo, è la tua stessa moto, e se lui ti è davanti vuol dire che tu non sei capace, potevi fare di più. Quindi è solo vetrina, è solo apparenza, sono dei professionisti, sono bravi e fanno vedere dei sorrisi, ma girerebbero coltelli, ovviamente una metafora, però ecco, sì, non mi stupirei se adesso veramente venisse su di nuovo il muro. Secondo me è in vantaggio Lorenzo, perché è più bravo, più veloce mentre ha posto la moto, ha questo jolly nella manica, e invece la testa io do favore a Valentino, perché ne ha viste tante e forse ha il jolly più di creatività, di psicologia da tirar fuori nel momento giusto quindi è una battaglia alla pari, tecnicamente metterei Orghe, di testa da giocarsi per equilibri sottili politici all'interno della squadra, come gesti, anche come strategie nell'arco del weekend. Valentino, aspettiamoci sempre qualcosa, non dimentichiamoci. Sì, ha bisogno di un appiglio dove attaccarsi per ha bisogno di andare forte in prova, perché se quello parte in prima fila e prende la testa e parte in quella maniera, gli mancano due decimi, non è una questione, capito, di approccio, ma li non deve è una trovare, questione ma li deve trovare, perché contro Lorenzo, se tu non riesci a partirgli vicino, lui va via, non c'è niente da fare. Lui vince la Biaggi, vince, prende e va, e vince per distacco, non c'è modo di attaccarlo. Devi farti vedere con la rotina davanti, lui magari va fuori di testa perché dice sì, si destabilizza, si deconcentra, può fare l'errore, ma è solo l'unico motivo, è quello. Ma Valentino questo lo sa, quindi piuttosto rischia, gioca al jolly, però gli arriva a farsi vedere, e allora può ancora giocarsi la gara. Devo dire, bello anche vedere una Suzuki davanti competitiva, peccato che Spargaro quando era quarto ha mollato, caduto. È bello vedere Iannone che nel silenzio però alla fine è sempre lì vicino ai primi, e quindi sta maturando, l'abbiamo già detto, io aspetto la prima vittoria di Iannone da qui alla fine della stagione. Marquez lo rivedremo sul gradino più alto del podio almeno una volta da qui all'inizio. Ma è alla fuori fine dal mondiale? Fuori, 69 punti, fuori, assolutamente, non è più in gioco, è un discorso Yamaha, moto a posto, bilanciata, i due piloti, è tutto. Quest'anno è l'anno di Yamaha, davvero, è resuscitata, devo dire che tutto fila liscio. Scusate il rumore, ma sono a Maggiore, dove c'è il mondiale del motocross, e io invito tutti gli appassionati almeno una volta nella vita, perché è uno sport vero dove la macchina è di contorno e l'uomo è protagonista. Tu sai che questa è la pelle di Roberto Ungaro, la pelle di Roberto Ungaro al fango sopra, prestato alla MotoGP. Vedere quello che fanno in un terreno così pesante col fango, ragazzi, una volta nella vita è da vedere, perché la macchina non conta, conta l'uomo. Infatti tanti velocisti amano questa, è troppo pericolosa per loro, non lo fanno solo per quello. Dovizioso è un bravo crossista, e anche Melandri, anche Roberto Ungaro, che l'ha fatto di mestiere, adesso c'è il giochino del flat track, che è divertente, non ci si fa male, infatti tutti i piloti si allenano lì e controllano la sensibilità per l'aderenza. torniamo alla GP, comunque bella gara, un po' avara di sorpassi. Sì, ma ci dobbiamo abituare, però è bello tutto il contorno, la battaglia, tutto, è bello anche che abbiamo il traffico. Ciao Roberto. Ciao Roby. Un saluto, ciao, ciao, un abbraccio. Ciao. Grazie Roberto Ungaro, 800 24 00 24, 349 238 6666, se volete mandare i vostri messaggi, noi vi aspettiamo, siamo qui fino alle 19 e siamo alle bombe di mercato. Alle bombe di mercato, bomboni. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Il prezzo è sempre 100 milioni? Ma io dico che il prezzo è quello, lo fa chi lo compra. E chi compra un'opera d'arte così raro sa che il prezzo non deve contare. Io credo che Pogba sarà sicuramente uno dei giocatori più costosi del mondo, della storia. Se dovesse fare una scelta, questo ragazzo, lui dovesse farla, io penso che il Barcellona sia una società ed una squadra con un progetto pazzesco, cioè uno, quindi gli sconsiglio, cioè, uno, io lo dico, uno se deve fare una scelta oggi un ragazzo come lui gli consiglierei, io gli consiglierei, ecco, io gli consiglierei. Non so in che situazione ci metteranno, la mia speranza è quella di tenere Kovacic, tenere Cardi, tenere tutti i giocatori più giovani, più importanti. Per quel che riguarda la Concorda di Angolano, è un calciatore a metà fra noi e la Roma, e quindi è giusto che continuiamo a discutere con loro per trovare una soluzione. Ah, però, Se vendo Eder, mia moglie Emanuela se ne va da casa. Vuole prendere pure i Pazzini? No. O Caca rimane il presidente? No. Cassano? Io mi chiedo e vi chiedo, 800 24 00 24, perché accontentarsi di 100 milioni per Pogba se, come scrivono oggi gli inglesi, può valere 221 milioni. Intanto saluto Claudio Raimondi, collega di Sport Mediaset. Ciao Claudio. Ciao Claudio. Ciao a tutti. Perché accontentarsi? Esatto. No, siamo alla fantascienza. Perché chi si accontenta gode. Gode, non sempre, però insomma. No, spieghiamola Claudio, perché non è che il Manchester City, secondo i tabloid inglese, è pronto a pagare 221 milioni di euro, ma è il solito giochino di mettere insieme cartellino, commissioni, ingaggio e tutto. Però significa. Però ne stiamo parlando noi, voi, tutti i siti internet, i social network, quindi chiaro che è un vecchio trucco, però stamattina ci ha un attimino scioccato questa notizia. In realtà è una vecchia storia, il Manchester City c'è su Pogba e ne sapremo di più domani, quando Mino Raiola sbarcherà nel Golfo Persico, ufficialmente per liberare Ibrahimovic. Ti dico subito che l'obiettivo del Milan è arrivare a prendere Ibrahimovic a costo zero, cioè lui ha ancora un anno di contratto, quindi sostanzialmente la missione di Mino Raiola è quella di azzerare o abbattere il famoso indennizzo, e lì potrebbe poi dare di più, in questo senso, il Milan nell'ingaggio, avvicinarsi a quegli 8 più bonus milioni di euro che vuole lo svedese. Ma la missione è doppia, perché subito dopo cercherà di capire se davvero il Paris Saint-Germain dello sceicco, diciamo così, Altani Junior, veramente vuole investire cifre pazzesche, inserendo magari quel Cavani, anche se al momento è molto difficile, o perché no Verratti, visto che Pirlo se ne andrà. E allo stesso tempo poi probabilmente, ma dobbiamo verificarla, lo stesso Mino Raiola, sempre lì nel Golfo Persico, probabilmente proverà a bustare anche all'altro sceicco, Mansour, proprietario appunto del Manchester City, e poi se le offerte saranno davvero concrete, beh, a quel punto toccherà alla Juve decidere, ovvero decidere se è il caso di un sacrificio. Sì, il Barcellona e Braida l'abbiamo sentiti prima, vieni qui perché il progetto più interessante, insomma, sarà un'estate lunga e caldissima intorno a Paul Pogba, mentre mi interessa anche capire cosa sta succedendo intorno a Jackson Martinez, perché questa mattina ci siamo svegliati tutti convinti che Martinez sia del Milan, poi leggiamo il procuratore dire: Jackson Martinez non ha detto nulla perché non c'era niente da dire, non c'è nulla di deciso, non è sul divano in vacanza a casa sua, ma concentrato sulla Coppa America, e quindi poi vedremo che cosa succederà. Il problema è che lì costo zero non esiste ormai, no, però... Milan e costo zero sono diventati una specie di sinonimo negli ultimi anni. Lo diceva Claudio prima, per Ibrahim si punta al costo zero, in questo caso bisogna cacciare il grano. Sì, in realtà sono le frasi, no, da decodificare, ovvero c'è stato l'accordo tra i due club, tant'è vero che a darla è stato lo stesso presidente Pinto da Costa del Porto. Il problema è che non sono ancora stati affrontati nel dettaglio esattamente tutti i particolari legati ai bonus, ovvero lui rinuncia alla Champions League, perché al Milan, e soprattutto c'è da modellare un contratto a salire che dovrebbe sfiorare, o anzi superare, i 4 milioni attraverso appunto l'inserimento di bonus, numero di gol, vittorie potenziali per esempio dello scudetto, obiettivo minimo con una squadra di questo genere che sta progettando il Milan. Quindi insomma è chiaro, ci sono 37 punti da scalare per arrivare alla Juventus. Credo che sia un po' dura farlo tutto in un'estate anche di mercato scintillante, però certo. I bonus si possono anche inserire in un contratto, no, però voglio dire, io resto fermo sulla posizione che Jackson Martinez sarà un giocatore del Milan. Sì, stai sereno, come dice, stiamo tutti sereni, non è soltanto un gioco delle parti, assolutamente sì. Legittimo. Titolo oggi del sito del Sole 24 Ore: la Juve prende Khedira, il Milan prende Martinez, l'Inter prende Tempo. Che non è male, eh. Che non è male. Apprezzo. No, aiutaci, guarda, a consolare gli amici interisti. Mancini in difficoltà. Allora, ti posso dire questo, che in questo momento l'Inter è la big italiana che incontra maggiori difficoltà. Non posso svelare il motivo, però vi assicuro che è un motivo serio. E diciamo che potrebbe solo attivarsi con una cessione. Allora, le cose sono due. O viene, come hanno scritto i colleghi croati, davvero si verifica il sacrificio di Kovacic intorno ai 22 milioni, questo darebbe grande impulso al mercato comunque abbastanza buono dell'Inter, altrimenti potrebbe essere Guarin. Oggi abbiamo scovato che piace non poco al Fenerbahce in Turchia e Istanbul, è un club ambizioso, vuole pareggiare insomma gli investimenti che ha fatto Galatasaray con i vari Snyder nel tempo, prima ancora Drogba, quindi vorrebbe un nome importante, Guarin lo è. Per quel mercato. Detto questo, io credo che, attenzione, perché Toir dovrebbe cercare di aprire un po' di più il rubinetto, altrimenti, la dico, non mi stupirei se si arrivasse a un caso Conte, però a tinte nerazzurre, nel senso, l'anno scorso Conte poi con divergenze sul mercato, sì, a metà luglio ha fatto sì che, anche se lì c'era una situazione pregressa, c'era un accordo col Milan, c'era una situazione che probabilmente in questo momento all'Inter non c'è, però è evidente che anche la convivenza con questo Milan di nuovo pieno di soldi sul mercato non è semplice oggi per l'Inter, e non è semplice da gestire per Mancini, e quindi è una situazione che va tenuta sott'occhio, compresa la questione dell'Europa League. Io vi confermo che se l'Inter dovesse rientrare ai preliminari di Europa League, il mercato è molto più complicato, perché scattano tutte le sanzioni dell'UEFA, ma soprattutto scattano tutti i vincoli. Sì. Quindi il pareggio tra saldo, cessioni e acquisti, il monte ingaggi che non può crescere, e quindi diventa tutto più complicato. Io non so quale sia il vantaggio dell'Inter a rientrare in Europa League. No, abbiamo visto che alla fine quasi sempre si rivela una trappola, consuma energie, abbiamo visto Fiorentina e Napoli, bisogna comunque allestire tutto sommato un paio di squadre, almeno per la prima parte della stagione, quindi richiede comunque investimenti a fronte di un ricavo bassissimo rispetto alla Champions League, quindi veramente può essere un boomerang, sono d'accordo con te. Attenzione, perché tra domani e martedì Galliani dovrebbe andare ancora in Monte Carlo, ci risulta, per tentare di chiudere il secondo colpo che è con dubbia obiettivo dell'Inter. Voi pensate, insomma, se Mancini dovesse veramente conquistare questo tipo di obiettivo, già chiuso anche qui in chiave rossonera, comincerebbe una situazione molto critica che noi stiamo monitorando, perché anche sui giornali si fanno ipotesi, abbiamo contatti con procuratori, agenti, dirigenti, però di fatto l'Inter non chiude, non riesce a chiudere e questa cosa sta spaventando il popolo nerazzurro, a maggior ragione lo stesso Mancini che crede in questo progetto, però adesso vuole farsi. Sì, non si capisce bene quanti soldi ha l'Inter in tasca. Cioè, il discorso mi sembra più o meno questo, no? Poi Mancini ha chiesto 7, 8, 9 giocatori, quindi tanta roba. Non si capisce bene quanti soldi l'Inter abbia in tasca. Guarda, io ti dico l'ultima, che, cioè, che ha scritto poco fa il portale AS, dicendo: obiettivo Benitez vuole il Kun Aguero, Manchester City, che in realtà non ha nessuna intenzione di dare via indipendentemente da tutto. Quello sacrificato sarà Dzeko. Dzeko, lo sapete, c'è la Roma, anche c'è pure l'Arsenal. E il secondo obiettivo, secondo la stampa spagnola, e probabilmente Benitez avrà confidato qualche collega questo desiderio, è Icardi, che ha appena rinnovato, ma che comunque a fronte di un'offerta, io penso che un club come Real Madrid, 30-40 milioni di euro, è pronto a sferrarli. Io credo che voglia potenziare l'attacco, e Benitez è un grande stimatore di Icardi, lo ha visto tutta la scorsa stagione. Quindi attenzione, perché in un senso o nell'altro l'Inter, per poter fare mercato, è deve prima mercato. Vendere da lì deve passare. I club, ragazzi, sono molto che non gioca a grandi livelli l'Inter, e quindi è chiaro che forse è bene che entrino nell'ottica di un sacrificio. Abbiamo ancora un minuto, io ho quattro casi da porti, e quindi andiamo con il sì o no. Sì. Evidentemente Benitez non stima Higuain, Napoli, Juventus o altrove? Juventus ci credo, e nei prossimi giorni ne parleremo, perché c'è Rugani che piace al Napoli, ne stanno parlando, sembra una trasviva impossibile, però a un club, il Napoli, serve il difensore che vuole Sarri, e di là, se va via Tevez, serve un grande serve bomba. L'attaccante. Poi Nainggolan, Roma o Juventus o altro? Ma alla fine credo Roma, perché sarebbe troppo uno smacco, e quindi non può lasciarsi sfuggire questa opportunità. Domani Valdifiori va al Napoli, beffato sì. Il Toro, quindi questa la diamo, diciamo, la confermiamo, la accendiamo. E poi mi interessa questa cosa della Samp, se è vero che va via Eto'o e arriva Cassano. Eto'o sì, dovrebbe andare in Germania al Borussia Mönchengladbach, e Cassano piace al presidente, ma meno a una certa parte della dirigenza. Io credo che stupirà ancora Ferrero, e segnatevi il nome di Balotelli, a patto che il Liverpool faccia un grande colpo in attacco, allora potrebbe arrivare in prestito con una partecipazione dei ref al pesante ingaggio tra le casse della Samp, ma è una pista tutta da sentire. Balotelli, la cui sparizione compie oggi un anno, 14 giugno 2014, e io ero la Mangaraciba con il vostro amico Pierluigi Pardo a iniziare questo calvario, ad assistere alla sparizione. I 10 giorni neri del calcio italiano, 14 giugno, 24 giugno, con la sconfitta con l'Uruguay. Grazie. Ciao, Claudio. Ciao. È stato un piacere. Ciao. Piacere anche nostro. 800 24 00 24, vi voglio belli caldi, anche su Zeman a Lugano. E poi io comunque voglio riaprire il grande sondaggio. Ibra sì, Ibra no. Perché continuo ad avere notizie dei tifosi milanisti che non vogliono le minestre riscaldate. 800 24 00 24. Torniamo subito. Sono Diego Dalla Valle, e a Montella ho fatto le scarpe. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. No voglio mentire a los tifosi, no. Entonces es un pensamiento que claro que puede cambiar. Claro que puede cambiar. Tengo un año de contrato y me queda un año de contrato, ma puede cambiar, todo puede cambiar, claro, porque estoy en un club donde me siento como en mi casa. È difficile, ha un contratto con noi, ecco, ancora per un anno, però il contratto è un aspetto formale, direi rimane il rispetto verso il professionista, verso l'uomo, e quindi se lui appunto fa delle scelte di vita differenti abbiamo l'obbligo di assecondarlo. Penso che Ibra ha un fisico eccezionale, ha una tecnica. È una testa pure, professionale. È forte mentalmente, quindi sì. È un giocatore che in una squadra è sempre importante, è sempre determinante. Quindi poi dipende poi dalla filosofia, dai progetti che una società ha, e quindi il Milan potrebbe ancora puntare su di lui. Comunque, fischiando, cantando il motivo. Invece è tornato a sognare Ibrahimovic, è un sogno possibile? Ma sognare è libero per tutti, anch'io ho dei sogni che poi qualche sogno diventa verità, qualche altro sogno no. Nel caso specifico, questo è un sogno possibile? Ma io credo di no, però se poi uno sogna e ci mette anche l'impegno, chissà, ma credi no. Io sono un po' sorpreso, devo dirvelo, sono un po' sorpreso perché continuo a sentire tifosi del Milan che ritengono Ibrahimovic una minestra riscaldata. 800 24 00 24. E allora abbiamo chiamato l'uomo che Ibrahimovic l'ha portato in Italia, che lo conosce, amico e amico di Mino Raiola. Saluto Luciano Moggi, direttore, buonasera. Buonasera. Ibrahimovic sì o Ibrahimovic no, perché le minestre riscaldate non funzionano mai? Posso fare una domanda sì. preliminare? Domanda preliminare. Mi racconta quella volta che Raiola si presentò in Bermuda da lei a firmare Ibrahimovic, è verità o leggenda? E lei si arrabbiò come una bestia. Ma no, questa qua è una leggenda. Ah, è leggenda? Io, sì, non è proprio così. Ci siamo trovati addirittura per Ibrahimovic, niente meno che all'aeroporto di Nizza, il giorno che c'era la Formula 1 a Monte Carlo, tant'è che poi l'ho mandati addirittura a vedere la Formula 1 accompagnati da Romicai. Quindi si era presentato con i pantaloni, almeno quello. La leggenda voleva che era andato in Bermuda e ha detto: ma vieni così a firmare il contratto da me, disse Moggi. No, il problema, sapete qual è? È che Raiola è uno che... Allora, dire che capisce di calcio non lo so, dire che sa trovare dei giocatori sì. che hanno qualità enormi, su questo non c'è dubbio, sì, quindi sì. è da valutare. Io pensai che avere lui come spalla poteva essere una cosa importante, e con lui ho fatto una grande squadra, perché oltre a Ibrahimovic mi ha fatto prendere... Nedved, mi ha fatto prendere addirittura anche Emerson, che non era una procura sua, però mi ha aiutato con la Roma. Sì, quindi fa bene Gagliani a tornare a bussare alle vecchie porte, che poi è una delle accuse che gli lanciano i tifosi del Milan, cioè, ma adesso che sono tornati i soldi, invece di guardare su un progetto futuribile, da chi torniamo? Torniamo da Mino Raiola, Ibrahimovic, hanno ragione? Chi ha ragione? Ma parlare di Ibrahimovic come minestra riscaldata mi sembra un po' esagerato. Io credo che chiunque vorrebbe avere un giocatore come lui, perché è un reparto intero Ibrahimovic, non è un uomo. Se voi fate mente locale, intanto guardate quello che sta facendo anche al Paris Saint Germain, poi fate mente locale a quello che giocava nel Milan, e voi vedrete praticamente dei giocatori che non avevano mai segnato gol. Boateng è uno, ma anche il mitico Nocerino, la stagione dei 10 gol. Ho capito, ma perché? Perché tutti si accentrano su Ibrahimovic, magari 3-4 giocatori. Cercate di vedere qualche scena di queste giocate. Lui che se li fa tutti, mette la palla al centro, chi viene. Io per esempio a Nocerino dissi una cosa: tu stai sempre vicino a Ibrahimovic, vedrai che i gol ne segnerai. Così è stato. Sì, qualcosa succede. Altra critica che fanno a Gagliani, questa forse più condivisibile, è che il Milan soprattutto in partenza aveva grandissimi problemi, ad esempio in difesa, e quindi adesso che ci sono i soldi va bene Martinez, Ibrahimovic, va bene partire davanti, ma non bisognerebbe cominciare dalle fondamenta? Sì, su questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio, anche perché io ho visto, ma non solo dalla difesa ma anche dal centrocampo, non c'è una mente pensante che dirige praticamente i tempi della squadra, per cui penso che avere qualche centrocampista di qualità e due difensori diversi, perché lì tutto quello che i difensori centrali possono dare magari sui colpi di testa, anche se non sono grandi tempisti, nonostante l'altezza, ma bisogna prendere i giocatori, magari sì, tutti di 1,70 m, no, ma insomma bisogna prendere uno di 1,90 m, ma anche uno di 1,75 m, perché i recuperi, quelli di 1,90 m, non li fanno quando scappa l'avversario. Voi fate, pensate a quello che poteva fare una squadra di calcio, dunque Alex, che un... Sì, tutti un po' macchinosi, un po' lenti. Tutti uguali. No, a parte che il Milan ha preso gol in tutti i modi, perché ha preso un sacco di gol di testa. Situazioni... Bisogna accoppiare praticamente delle caratteristiche in una squadra di calcio, e non certamente come adesso il Milan. Quindi bisogna fare un riesame della difesa e un esame anche dell'attacco, perché... Se i palloni non arrivano è difficile poi centinare. Sì, puoi anche avere Ibrahimovic e Martinez, ma qualche problema continui ad averlo. Noi abbiamo un minuto di traffico, io poi vorrei affrontare il tema Tevez, perché su Tevez e la Juventus io ho una mia opinione personale. Perché mal di pancia? Però adesso c'è il traffico, Luciano Moggi resta con noi, 800 24 00 24 e poi chiediamo a Moggi, lui da direttore generale della Juventus, come avrebbe trattato cosa Tevez. Farebbe con Tevez? Traffico. Buonasera, sono Papa Francesco. Volevo dire al signor Tevez che se per caso ha intenzione di lasciare la Juventus, venga piuttosto al San Lorenzo. Se no, gli do un pugno fra naso e Boca Junior. Tutti convocati. Convocati. La mia opinione sul caso Tevez è questa, che io non ho capito perché la Juve debba riconoscenza a Tevez o a chiunque altro, in fondo non l'ha avuta con Alex Del Piero, Tevez è qui da due stagioni, io credo ci sia sotto altro, ci sia una questione di soldi da parte di Tevez, forse ci sia da parte della Juventus anche l'idea che è arrivato il momento di cambiare ciclo. Però oggi la Juve mi sembra un po' prigioniera di questa cosa. Lo chiediamo a Luciano Moggi. Luciano Moggi avrebbe fatto passare 10 minuti non bellissimi, credo, a Tevez. Ma io penso che sia una situazione da vedere dall'interno, perché è difficile. Solitamente però, quando succedono queste cose, o siamo in presenza di un giocatore che vuole più soldi e un contratto pluriennale che gli possa garantire la pensione, io non vedo come questo possa chiedere di andare via. È vero che è un campione, su questo non c'è dubbio, è vero che in Italia ha fatto la differenza, è anche vero che la Juventus è praticamente senza i suoi gol sarebbe andata poco avanti, su questo non c'è dubbio, perché l'attacco della Juventus è praticamente si condensava proprio nel gol di Tevez. Però bisogna capire le situazioni. Io e la Juventus credo che non abbia dubbi praticamente su questo. Penso che sia una lotta più che altro ad avere un contratto di sostanza, visto il rendimento che ha avuto Tevez in questo periodo. Cioè sta chiedendo l'aumento, volgarmente parlando. Penso proprio di sì. Ma la Juve fa bene ad aspettarlo oppure deve dimostrarsi un po' più forte? Perché comunque anche questa tiritera, penso dopo la Coppa America, non lo so, non ti rispondo, c'è l'Atletico Madrid, il Paris Saint-Germain, soprattutto il Paris Saint-Germain. Io avrei fatto in maniera un po' diversa, ma comunque voglio dire, aspettare è sempre una cosa antipatica. Antipatica perché significa fare comodi degli altri. Qui da una parte il datore di lavoro, dall'altra il dipendente, in pratica il dipendente fa le bizze per dire io resto o non resto. A quel punto lì c'è solo da stabilire praticamente il da farsi, che secondo me potrebbe essere quello di lasciare anche Tevez al suo destino. Perché pregare è una cosa che praticamente lascia sempre dei dubbi in tutti quanti. Poi c'è anche un fatto. Potrebbe anche darsi che Tevez abbia paura di non dare il rendimento che ha dato fino ad oggi e quindi di cambiare società, ma questo si verifica di solito con giocatori che sono alla fine della carriera. Io non voglio non se uno pensa di andare a Parigi, ad esempio, perché è una delle mete di cui si parla per Tevez. Ma però c'è anche un contratto, la Juventus ci dà i soldi, cioè è sotto contratto. Siccome la Juventus ha un contratto ancora di un anno, quella di Parigi potrebbe essere anche una pista buona. Sì, per portare Cavani. Va bene, io ti do Tevez e tu mi dai Cavani, altrimenti Tevez sta qui fino alla fine dell'anno, fino alla fine del contratto. Se gioca bene, se non gioca una tribuna. Bisogna anche usare un certo... Io non credo che però ci siano questi estremi ancora su Tevez, perché mi sembra anche un ragazzo, io ci parlo, mi sembra un ragazzo in gamba. Non, però, non volano ancora gli stracci. Quanto vale Pogba? Prego? Quanto vale Pogba? Beh, questo dipende da chi lo vende. Beh, lo vende Mino e quindi, okay. E quindi valore, vale tanto. Il valore del giocatore è dato da chi lo vende, non il valore intrinseco proprio del giocatore stesso. È chiaro che qui si tratta di un giocatore con aspetti di prim'ordine per quanto attiene la carriera futura, oltretutto è giovane. Però insomma ha ancora tanto da fare per diventare un campione. Adesso si sta montando una cosa che praticamente è anche giusto montare da parte del giocatore stesso e del procuratore. Da lì a dire che questo qui è Zidane, ne passa. Io posso testimoniare che sabato sera a Berlino, sala stampa, dopo la finale di Champions, i colleghi spagnoli di Barcellona lo soprannominavano pesce freddo, per dire che non aveva fatto una grandissima partita, no. Non aveva emozionato, non si era calato. Non aveva fatto una grande partita, ma da qui da lì a criticare ci ricorre. Però voglio dire, era tutta un'altra cosa Zidane, aveva anche un'altra età, dobbiamo anche ammetterlo, e quindi questo qui può crescere, però c'ha un vizio diverso dal campione nel vero senso della parola. Gioca spesso per se stesso anziché per la squadra, e questo nervosisce anche i compagni spesso e volentieri. Sì, dimentica un po' il resto della squadra. Grazie direttore. Grazie. Ci mancherebbe. Arrivederci. Grazie a Luciano Moggi, 800 24 00 24. Stefano dalla provincia di Forlì, Cesena. Stefano. Ciao a tutti, ho chiamato un paio di volte in passato per criticare Galliani pesantemente, sì. Da tifoso milanista, non sto a ripetere solite cose, adesso che ci sono i soldi si nota ancora di più che lui era il problema del Milan, perché sì. Prima se ne stava al mare a fare il mercato e si faceva portare i giocatori dai procuratori amici, e adesso gli tocca uscire e andare in giro a fare qualcosa, quindi sì. Ha smesso di lavorare per la Juve e ha cominciato a lavorare per il Milan. Per quello che riguarda Ibra, da milanista, sì, sono per il rinnovamento, però Ibra ti garantisce di tornare subito in Champions League, immediatamente, questi sono un sacco di soldi. E per ultima cosa, devo purtroppo dare ragione a Moggi, che non stimo, ma ha detto la cosa giusta su Pogba, che è stra ultra sopravvalutato, un giocatore che stra ultra sopravvalutato partita. Magari no, però no. 100 milioni, Stefano, sono un po' troppo, forte, ma sopravvalutato, meglio 221, no? Sì, meglio 221 rispetto a 100. Grazie Stefano. Ecco qua, però presidente, casca bene, perché volevamo parlare della storia dell'Europa League, ad esempio, casca proprio a pisello, come dicono i toscani. Maestra di Dio, so etero, sensuale, presidente, allora, abbiamo detto fa circa questa settimana, dovrebbe decidersi questa storia della licenza UEFA, della Samp. Ma io manco c'ho quella da media superiore, figuriamoci se mi danno quella da UEFA. La licenza, dice. Casomai me la tolgono a qualcuno gli erode. Sì, quindi va l'Inter in Europa League, è ufficiale, lo diciamo. Ma non vede quante cose strane succedono. Cosa succede, per esempio? Cosa succede? Come mai proprio in questi giorni è tornata dallo spazio a Samantha Fox. No, si chiamava Samantha Cristoforetti, però non c'entra nulla che è tornata dallo spazio. Ma non vede che alla Focca gli hanno tappato la bocca, non riesce a spiaccicare a manco una parola. Ma no, l'effetto è stanca, l'effetto della gravità, cosa vuoi? Ma poi cosa c'entra con la Samp? Io non riesco a capire. La forza di gravità, sì, manca la forza di gravità, sì. Ma ci stanno scippando la Coppa UEFA, sì. E lei dice che non è grave. Quindi lei è preoccupato. A qualcuno ascoltami, capito? Quindi è preoccupato. Insomma, ma capiamo. Succedono cose strane, sì. Ma lei lo sa che sono romano del testaccio, sì. Simpatizzante da Roma, sì. Ma come spiega il fatto che ci hanno messo Totti alla presidenza da Liguria. Ma che Totti? Eh? Si chiama Totti, presidente. comunque Eder va all'Inter. Ma pure Eder. Ma sì, va Eder, lo vuole l'Inter, insomma tutto. Lei ha un po' di mania di persecuzione. Io non ho nessuna mania di prosecuzione. Ma che prosecuzione, presidente? Arrivederci. 800240024, torniamo subito. Ragazzi, ci sono fra poco, tutti convocati weekend, 800240024. Se becchiamo fra poco, Tutti convocati. Iniziano la bagarre come se non fosse successo niente. Tutti convocati. 800-24-00-24. Allora, breve riassunto delle novità oggi di mercato. C'è l'agente di Jackson Martinez che dice: non c'è nulla di fatto, vediamo alla fine della Coppa America, ma noi diamo quasi per chiusa la cosa, insomma non dovrebbero esserci ripensamenti. C'è domani Raiola che chiede al Paris Saint-Germain di liberare Ibrahimovic, che deve andare al Milan a parametro zero o giù di lì. Al solito c'è l'offerta fantascientifica del Manchester City per Pogba. Gli inglesi hanno calcolato 221 milioni di euro tra cartellino, ingaggio, commissioni e tutto. Mi pare una discreta balla. E tutto il resto. Domani Valdifiori va al Napoli. Higuain potrebbe andare alla Juventus in un giro che riguarda anche Rugani. Nainggolan dovrebbe restare alla Roma. Pardo dovrebbe restare con noi. Ciao Pier. Come va? Tutto bene? Ti interessato, le nostre bombe di mercato le abbiamo fatte prima con Claudio Raimondi, che sì, dice anche attenzione a Mancini che si sta un po' innervosendo per la questione del mercato dell'Inter e anche credo del Milan, perché non è facile stare sull'altra sponda del naviglio oggi. Ma sicuramente oggi abbiamo due da milanesi che hanno chiuso la stagione scorsa nello stesso modo, anche se l'Inter adesso culla questo progetto di infiltrarsi in qualche modo, chiaramente in maniera lecita, imbucarsi nell'Europa League se venisse squalificata e fatta fuori da Samp, ma insomma questo può rappresentare, lo sappiamo, anche economicamente un vantaggio in prospettiva, però insomma avevano chiuso l'anno grosso modo nella stessa maniera e adesso però insomma l'approccio a questa stagione mi sembra molto diverso. Quando qualche giorno fa un ascoltatore ci ha chiamato chiedendoci insomma se c'è qualcosa da cambiare sul Milan, mi sembra che occhio e croce magari non faranno una squadra tecnicamente all'altezza. Sì, subito da scudetto, però manca un po' di tempo. Che l'approccio al mercato rispetto agli altri anni siamo diversi, la sensazione che qualcosa sia cambiato per davvero è molto forte. Per quanto riguarda l'Inter invece questa scossa in positivo non c'è stata, come per tutte le altre squadre ovviamente, e quindi si fatica e si vive con quelli che sono i budget di oggi, i problemi di oggi, da PIL internazionale che è sempre buono ma non è più chiaramente quello di un paese dominatore come l'Italia qualche anno fa, e quindi sa, Mancini cassa qualche volta no, e sicuramente non contento di leggere invece questo iperattivismo del Milan. Sì, e ha tutte le ragioni a innervosirsi, però aspettiamo, siamo al 14 giugno, mercato lunghissimo. 800240024, c'è già Luciano dalla provincia di Vercelli. Io avviso gli amici che dopo il traffico parleremo del caso Doyen, che oggi è ufficialmente scoppiato sulle pagine della Gazzetta dello Sport con un articoletto di 30 righe. B deve chiarire qual è il ruolo di Doyen nel Milan. Raccontiamo anche qualche retroscena, perché è incredibile che Fininvest oggi scopra che Doyen è partner di Mr. B e quindi partner del Milan. Però dopo il traffico, se comunque avete la vostra idea, chiamate, fino alle 19 siamo qui. Luciano dalla provincia di Vercelli. Luciano, buongiorno, prego. Ci risentiamo, ce l'avamo sentiti quando si parlava di ricavi e io ho chiesto se c'era la possibilità che Juventus Roma arrivassero in finale. Devo dire che questo per tanti tifosi juventini è successo. Oggi vorrei parlare un po' del fatto che Genoa e Sampdoria rischiano l'esclusione. Genoa è fuori, Genoa è già fuori. Esatto. Non è che rischia. Sampdoria anche, ma vorrei il vostro parere sul fatto invece che non si è mai discusso sull'operazione Neymar del Barcellona, che mi sembra non abbia spiegato il discorso dei valori differenti tra quanto dichiarato e quanto effettivamente sia stato speso, cosa che non viene mai presa in considerazione nel calcio europeo. Dato che anche il Paris Saint-Germain mi sembra pronto a violare nuovamente le regole Sì, però Luciano, mi pare ci sia addirittura un processo aperto a Barcellona, certo, non certo è che proprio non se ne è parlato del caso Neymar, se ne è parlato come? Il presidente ha determinato un terremoto mica da poco, quindi quel caso è ancora aperto, se ne parla come... e porterà probabilmente ad ulteriori conseguenze. Sì, sul fair play finanziario, allora ve la racconto. Ieri Le Parisien pubblicava la bozza della riforma che il 30 giugno sarà votata dall'UEFA, e attenzione perché sembra scritta su misura per il Milan, e cioè potrebbe passare il concetto che dalla prossima stagione, quindi da oggi praticamente, se qualcuno ha un nuovo proprietario e questo nuovo proprietario presenta un piano, vuole investire, può farlo per 4 anni senza dover rispettare nessun paletto, nessun vincolo. L'unico vincolo è che ripiani le perdite alla fine di ogni stagione e dopo 4 anni si trovi in linea con quello che era il piano di crescita. I francesi sono un po' arrabbiati perché dicono: ma come, Paris Saint-Germain continua a essere sotto sanzione, il Manchester City anche, ad esempio il nuovo Milan potrebbe beneficiarne, Pierre? Assolutamente, sì, no, confermo e sì, sembra scritta apposta, nel senso che è chiaramente la ratio della norma è quella di favorire ingressi di capitali nuovi e di proprietari nuovi, quindi favorire, diciamo, rendere più attraente e più appetibile questo tipo di mercato, quindi ha una sua logica, non è fatta così per favorire qualcuno, è fatta in buona fede, però è chiaro che come effetto fondamentale per quello che è il nostro calcio ci sarebbe questa cosa sul... Beh, Pier, però in un modo o nell'altro bisogna anche operare per rendere campionati competitivi, per aprire la competitività a nuovi soggetti, perché ci rompiamo le scatole. Fair play finanziario in un mondo ideale non dovrebbe esistere, non dovrebbe esserci bisogno del fair play finanziario, non dovrebbe esserci bisogno dell'UEFA che ti dice che non puoi portare avanti la società in maniera insostenibile, perché poi dopo fallisci. Questo è ovvio. Ecco, però bisogna anche trovare un modo per ripristinare un minimo di equilibrio all'interno dei campionati nazionali e non solo il nostro. No, ma assolutamente. Ma sai, il concetto di equilibrio è sconvolto dalla Champions League. La Champions League è un meccanismo, che è una competizione che di fatto ha istituito il due pesi e due misure, nel senso che i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri. Chi riesce a agganciare ogni anno il premio della Champions League diventa più ricco, e se lo fa per 10 anni consecutivi, come il caso delle grandi d'Europa, il Barcellona, sì, Real, finisce per scavare un solco quasi incolmabile con quelle che restano oggi, dietro. Oggi è impensabile che Verona, la Samp o la stessa Fiorentina possa vincere il campionato, cioè giocano la loro stagione per star bene, magari nel caso della Fiorentina che accusa un po' di budget in più per poter sognare un anno di arrivare in Champions League. Questa è la situazione, insomma, non è così solo, cioè non è così da noi e basta, è così anche in altri paesi. Sì, è così ovunque. Sono anni che Barcellona Real, con la parentesi eroica dell'Atletico Madrid dell'anno scorso. Se dico una cosa sulla Samp, la Samp mi sembra che pagherebbe, non lo so, io spero ovviamente che possa rimanere, perché se non essere guadagnata sul campo, che sia paradossale, la sanzione è paradossale, nel senso che riguarderebbe una società che oltretutto ha cambiato proprietà in questi anni, una pena che è stata passeggiata col precedente del Torino dell'anno scorso. Che sì, però facciamo così, Pier, c'è il traffico, che siamo anche un po' in ritardo, perché anche del precedente del Torino andrebbe detto qualcosa, perché in realtà non esiste il precedente. Pare che semplicemente Torino e FGC non avessero certificato che esisteva questa pendenza, quindi l'UEFA non ha mai valutato questa cosa, non sappiamo cosa ne pensa, forse lo scopriremo adesso con la Samp. Però c'è il traffico, 800 24 0024. Direttore, sono Paolo Brosio, sono a Medjugorje. Sa quale partita del campionato italiano guardano sempre qua? Il derby della Madonnina. È piaciuta la battuta? L'ho studiata tutta la notte. È bellissima. È piaciuta? Tutti convocati. Tutti convocati. Berlusconi è arrivata liquidità e penso che l'errore più grande è stato in questi due anni far credere ai tifosi che il Milan è competitivo. Io penso che se si parlava chiaramente sin dall'inizio, la gente poteva accettare tutto questo che è successo in questi due o tre anni, però siamo sempre stati là a sentire, siamo competitivi, si vinceva una partita possiamo andare in Europa, invece questo ha fatto arrabbiare veramente il tifoso e oggi vuole vedere un qualcosa di concreto. Questo Gattuso venerdì sera Sport Italia, non gli avevano ancora detto che il procuratore di Martinez ha detto che non è ancora fatto nulla, altrimenti credo si sarebbe scatenato. Pier, ti faccio finire il discorso sulla Samp, poi parliamo del caso Doyen. No, sulla Samp, detto, insomma, dal punto di vista, diciamo, di logica sarebbe una assurda. Poi ho letto anch'io, sicuramente, un altro paradossale, ridicolo, del Torino che l'anno scorso è stato ristagnato dal fatto che non è stata inviata la documentazione. L'UEFA non ha chiesto un approfondimento, che invece ha chiesto lo stanza. Io valuto dal punto di vista della sostanza. La sostanza è che, diciamo, per lo stesso tipo di situazione identica, spiccicata, identica, di avere due provvedimenti completamente diversi. Cioè Torino in Europa League l'anno scorso, la Samp invece fatta quest'anno. Mi sembrerebbe veramente una cosa assurda. Detto questo, aspettiamo. Vediamo che succede. Il rischio c'è. Poi leggo anche di queste pressioni da parte di altri club. Un giorno scopriremo se è vero, e anche il nome eventualmente di chi ha fatto la spia e ha mandato l'esposto all'UEFA per dire: controllate la situazione della Sampdoria, 800 24 00 24. E lo dico subito, qui non vale il concetto che siccome è l'ottava che entrerebbe l'Inter, allora sicuramente è stata l'Inter, perché io lo ripeto, a me risulta che l'Inter abbia tutto l'interesse tranne che andare a fare l'Europa League per questioni di rapporti con la UEFA, di sanzioni del fair play finanziario, forse anche di clausole all'interno del finanziamento che ha, quello da 230 milioni. Ancora più debole sul mercato. Parliamo un po' del caso Doyen, quello che è scoppiato oggi ufficialmente, Pier, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, articolo dal titolo Arcore il caso Doyen, B adesso deve chiarire. Sostanzialmente si scrive che la foto e comunicati di Nelio Lucas con Gagliani in questi giorni hanno irritato Berlusconi, che la Fininvest non era e non è pienamente a conoscenza di cosa è il fondo Doyen e di quale sia il suo rapporto con Mr. B e con il Milan, e che Mr. B deve chiarire subito qual è il ruolo di questo fondo. Mi sembra ci sia un sacco di confusione. Io non so che idea avete voi, Carlo e Pier. C'è un sacco di confusione all'interno del Milan. Non esiste che Fininvest non sappia cosa sia Doyen e cosa rappresenti. Si sono parlati per mesi. È stata ceduta un'azienda per una montagna, o una parte di un'azienda per una montagna di soldi. Dunque, a me sembrano cose abbastanza fantascientifiche. Pier? Sì, ma sicuramente mi sembra abbastanza fantascientifico, ma bisognerà capire ovviamente se qui torniamo al discorso che facevamo già qualche tempo fa sulla situazione di Doyen, cioè su se questo tipo di realtà sia accettabile o meno, sia auspicabile o meno, sia... Però questo, Pier, è un altro discorso, cioè dire no. Che oggi io dico due date, 9 maggio Gagliani, sì, che in un'intervista televisiva dice se viene Mr. B Doyen lavorerà per il Milan, e 11 maggio quando Doyen fa un comunicato dicendo se viene Mr. B noi siamo i partner, siamo orgogliosi, vi spieghiamo chi siamo e come opereremo. O gli uomini fini, Invest e Berlusconi, queste cose non le hanno viste, non le hanno lette, oppure c'è qualcosa che non quadra. Sì, penso che questi giorni saranno utili per questo tipo di situazione. Credo che 30 righe oggi in qualche modo abbia aperto il caso, e quindi mi aspetto una precisazione da questo punto di vista. Io credo che Milan in questi mesi sia stato particolarmente concentrato su quello che è il tema principale. Il tema principale era reperire fondi, risorse fondamentali e decisive per il prossimo mercato e per riportare il Milan alla gloria che mancava, come diceva giustamente Gattuso. Quel discorso di Gattuso è giustissimo, secondo me, ma l'abbiamo fatto mille volte anche molto modestamente noi, cioè sul fatto che in questi anni è mancata un po' di chiarezza nei confronti dei tifosi, tutto qui, perché poi se c'è un tifoso che può avere la pancia piena per quello che ha fatto negli ultimi 30 anni è il tifoso del Milan, che ha vinto tantissimo, quindi poteva anche accettare l'idea di 2 o 3 anni, diciamo, di basta dirlo, non la mancata chiarezza, bastava dirlo con chiarezza. Però mi rendo anche conto che non è facile, perché il Milan ovviamente non è una provinciale, è una grande squadra, perché ha sempre comunque vive anche molto d'immagine, lo ha fatto anche nelle ultime settimane. Aspettate che saluto Franco Ordine intanto. Franco, ciao, buon pomeriggio, buonasera, anzi eccomi qua, buon pomeriggio, ciao. Bene, bene, molto bene. Molto bene. Io passo, devo dire che sì, passo questi giorni di vacanza e sono circondato da persone che mi dicono: mi fai l'imitazione di ordine, come fa Franco? Tutto così, sappi, È l'imitazione più gettonata. Ci sono modi anche migliori di passare le vacanze, adesso non per... 5 euro per ogni imitazione mi devi dare, eh? Vuoi il copyright? Franco, ci aiuti a capire un po' com'è che, secondo quello che scrive la Gazzetta dello Sport, quindi non quello che scrive Franco Ordine, ma in questi giorni Fininvest improvvisamente si sarebbe accorta che tra i partner di Mr. B c'è Doyen. No, allora, io ho sentito prima la tua ricostruzione, non è che si è accorta improvvisamente. Qui stiamo, intanto giornalisticamente, il pezzo della Gazzetta nasce per, diciamo, tra virgolette, parare quella, diciamo, presentazione o inchiesta giornalistica che aveva fatto il giorno prima il Corriere della Sera. E questo è il primo punto. Secondo punto, la situazione è molto semplice ed è molto chiara, e voi che vi intendete molto di numeri e di finanza dovreste, come dire, sminuzzare la materia in maniera altrettanto chiara. E cioè, Mr. B, quando ha concluso il preaccordo con Silvio Berlusconi, ha mandato una lettera nella quale ha detto: Doyen è mio consulente sportivo. Che cosa vuol dire consulente sportivo? Che lui affida a Doyen, poiché non si occuperà di sport, diciamo, di calcio giocato, di scelte tecniche, eccetera, affiderà a Doyen il compito di rappresentarlo e di dirgli se l'operazione è giusta, se è da fare arruolare Tizio piuttosto che Caio. Questo è il ruolo di Doyen. Naturalmente Doyen, che è a caccia di clienti, perché a caccia di clienti? Qual è il mestiere di Doyen? Il mestiere di Doyen è quello di trovare dei giocatori, diciamo, tra virgolette, di talento e che possano diventare delle stelle, aiutare i piccoli club che hanno pochi soldi a comprarli mettendoci del loro dal punto di vista dell'investimento finanziario, nel piano scoperto di farli valorizzare, rivenderli e quindi riguadagnare per la parte con la quale hanno partecipato alla prima cessione. Questo è il mestiere di Doyen, che tra l'altro mi sembra abbastanza chiaro da quello che dice, da quello che ha dichiarato ufficialmente Adriano Galliani, non avrà, e da quello che fa sapere Fininvest, non avrà alcuna rappresentanza all'interno del board del Milan. Sì, ma lo scrive anche la stessa Doyen nel famoso comunicato che abbiamo citato, cioè che in nessun caso sarebbe entrato nella catena di controllo del Milan. Quindi questo è tutto chiaro, però a me, Franco, continua, e ripeto, a suonare poco convincente che oggi di questo ruolo si discuta, cioè che la foto di Doyen e Galliani che si stringono la mano sorridente, postata da Mr. B, diventi un caso. No, ma è perché un lo caso. È, perché lo è diventato, lo sai benissimo. Chi è vicino a Berlusconi 48 ore fa ha fatto polemica su questa vicenda. Ma certo, ma è lo stesso motivo per il quale c'è stata la polemica e il famoso comunicato contro Dana. Cioè, quello che dà fastidio e che non ha ancora capito perfettamente Mr. B è la seguente cosa, e cioè che un eccesso di visibilità e un eccesso di presenza confligge con le abitudini e con il ruolo del Milan, dove c'è una presenza dominus che sta sopra tutti, che deve essere quella di Berlusconi. Quindi quando Nelio Lucas si fa fotografare con Galliani all'interno dell'aereo e manda la foto a Mr. B, e Mr. B che la pubblica sul suo su Instagram, sul suo profilo Instagram, ed è con Mr. B che Fininvest si incazza. Quindi perché Mr. B deve fare il bravo. No, adesso, al momento di fare il bravo, deve, perché il padrone è ancora Berlusconi, questo è il senso. Deve rispettare i patti, e i patti sono che lui è minoranza e quindi deve fare il socio di minoranza, e il socio di maggioranza che ha, diciamo, il controllo dell'operazione è Mr. B Berlusconi. Nel senso, anche perché dal punto di vista economico-finanziario, queste operazioni che sono in corso attualmente sul mercato sono finanziate solo ed esclusivamente da Fininvest. Questo è vero, però Franco, non possiamo nemmeno far finta di dire come se non fosse successo niente. Cioè, è evidente che la velocità del Milan è cambiata perché nell'ultimo mese sono successe delle cose, altrimenti probabilmente sarebbe tutto un po' più macchinoso. Io credo che questo sia anche corretto dirlo. Posso chiederti un minuto di pazienza, Franco? Volevo anche capire se Pier si è convinto da questa cosa. Poi volevo dire una cosa sul comunicato, quello contro Pablo Dana, un retroscena che mi risulta, però dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità, torniamo subito. Spot per noi, torniamo subito. Tutti convocati. Si ricomincia. Tutti convocati. Pier, ci sei? Sì, sì, ci sono. Convinto? No, non dovevo convincermi più di tanto. Purtroppo mi conferma quello che in qualche modo già sapevo, che non so spiegare. Sì, c'è qualche problemino però di telefono. Adesso facciamo così con Gianmarco Ferronato, proviamo a richiamare Pier con una linea migliore. Franco, per chiudere sul comunicato di una settimana fa di Mr. B, quello in cui giurava silenzio e lavoro, a me risulta che il passaggio su Victor Pablo Dana, che è quello che ha colpito un po' più di tutti gli altri, Mr. B l'avrebbe volentieri scritto molto diversamente, in maniera molto più soft. Ho capito, però lo avrebbe, però intanto è partito quel comunicato a firma sua, e quello è stato. Lui avrebbe fatto un comunicato molto più soft, però non l'ha fatto. No, ma questo per dire che c'è molta apparenza anche ancora in questa storia, come forse per un mese a maggio abbiamo raccontato che tutto era chiuso, che Mr. B non era affidabile, e invece forse non era pienamente così. C'è ancora un gioco delle parti, insomma. No, ma qui il gioco delle parti, ragazzi, ma scusami, io dico, ma a te c'è qualcuno che ti può imporre di firmare un comunicato? Se tu firmi quel comunicato, anche tra virgolette, se non lo condividi totalmente, sai benissimo che cosa vuol dire, certo, firmare quel, certo, comunicato. Sono cavoli tuoi, soprattutto a quei livelli. Ne rispondi, certamente. Ma soprattutto a quei livelli, cioè a livelli di gente che sta trattando affari da un miliardo di euro. Grazie Franco. Ciao Franco. Ciao. Andiamo in Cile, dove troveremo anche Pardo, forse. Dove, in Cile? Attenzione, busca Paraguay, quiere Paraguay. Dove sta nel Zonaedo di larga distanza? Sobre el final del partido. Adesso io la prima domanda che voglio fare, Pier, ci sei? Tornato, no? No, non c'è, è ancora caduto. No, la prima domanda che voglio fare a Paolo Condò, che saluto. Ciao Paolino. Ciao, eccomi qui. E che so che trascorre le sue notti attaccato a Gazzetta TV per vedere la Copa America, e è perché il telecronista della TV paraguayana ha citato il nome di una famosa bibita che non rifacciamo per non fare pubblicità nel corso della telecronaca di Argentina-Paraguay. Tu che conosci tutto, dacci questa risposta. No, ma non ho percepito. No, citala. Lui fa gol e poi cita il nome dello sponsor e va avanti a raccontare la partita. Meraviglioso. Sudamericani dove possono metterti qualcosa per raccattare dei soldi lo fanno. Sì, se no che sudamericani sarebbero. Sono molto divertenti, però mi sono immaginato la festa, siccome nel corso del tempo ho avuto la fortuna di assistere a molte feste popolari in varie capitali del Sud America, mi sono immaginato la processione di macchine sul rio Asunción, che è il fiume omonimo che bagna la capitale del Paraguay, e la festa che ha... immagino che avranno steccato tutti i morumbi, no, tutti i surubi, che sono i favolosi pesci che tu puoi pescare in quel fiume, veramente sì. Molto buono. Sì, sì, Argentina che ha giocato un tempo soltanto, poi si è fatta beffare da 2-0 a 2-2, il gol del 2-2 l'abbiamo sentito, ieri sera abbiamo visto anche l'Uruguay in un bellissimo... Cile che ha vinto ma senza squilli, questa sera vediamo il Brasile. Mi sembra però, Paolo, nessuna, insomma, nulla di cui preoccuparsi, le favorite restano belle coperte. Sì, la prima partita è abbastanza tradizionalmente una gara, poi quella dell'Argentina era complicata, perché i paraguayani sono tradizionalmente tosti, e anche una squadra che a vedere bene i nomi non esprimeva nulla di realmente nuovo, perché c'era sempre Santa Cruz, Edo Valdés, Ortigosa, questa gente qui. Comunque è diverso il calcio che si gioca in Sud America dal calcio che si gioca in Europa. Molto banalmente, in Europa tu tuteli lo spettacolo e i giocatori come Messi sono appunto molto protetti giustamente dagli arbitri. In Sud America non è così. In Sud America chi mena per primo mena due volte. E quindi, certo, Paolino, se Messi stecca anche questa, se Messi stecca anche questa, torniamo a parlare di un sacco di cose. Sì, è vero, torniamo a parlare di un sacco di cose. Ieri ha giocato bene comunque Messi. Sì, sì. Ha giocato bene, ha fatto anche le prime partite ai mondiali giocò bene. Poi meno. In questo momento tutte le tue obiezioni sono assolutamente fondate, perché anche i mondiali giocò bene secondo me fino alla partita con la Svizzera, poi cominciò a calare abbastanza vistosamente fino alla finale, dove sbagliò un gol che nel Barcellona non avrebbe mai sbagliato. Sì, assolutamente. Intanto abbiamo recuperato Pierre, ci sei? Sì, ma rimane sempre secondo me la domanda su Messi, sì. Perché è evidente che la storia dei calciatori, dei grandissimi calciatori, è fatta dalle grandissime partite, ma Messi non è che abbia sbagliato nella sua carriera tutte le grandissime partite, ha sbagliato alcune partite importanti con la nazionale. Cioè, io faccio fatica a pensare a un giocatore che quando gioca la finale di Champions League, faccio per dire, non parlo tanto di questa contro la Juve, nella quale ha fatto di fondo un solo grandissimo spunto, ma penso per esempio a quella di Wembley contro il Manchester United. Insomma, Messi non è uno che nelle grandi partite le buca tutte. Quindi poi alla fine il discorso rimane legato alla nazionale, rimane legato a poche partite, cioè stiamo parlando alla fine di 4-5 giornate o serate della sua vita che sono andate in un certo modo e che potevano andare in maniera diversa. Poi è evidente che ci sia una disparità di rendimento fra la nazionale e l'Argentina. Ma è lì, è proprio questo, cioè è con la maglia albiceleste che deve finalmente giocare, finalmente avere una grande notte di quelle che ha sbagliato. Sì, sì, però voglio dirti che se anche dovesse vincere la Coppa America, comunque alla fine, cioè, se non vince un mondiale, non lo vince la protagonista, secondo me l'argomento pro Maradona ci sarà sempre, sì, e avrà un suo fondamento, poi fa parte della crudeltà del calcio, che alla fine racchiude magari 20 anni di carriera di un calciatore in 3 o 4 serate decisive della sua vita. È lo sport, è questo. Lo sport è anche che ci può essere un CT che ieri aveva titolari Messi, Di Maria e il Kun Agüero, e in panchina Tevez, Higuain e Lavezzi. mica Paolo, qualcuno oggi scrive: pensate, noi avevamo Candreva, Pelé e Sharawi in Croazia, e in panchina Gabbiadini, Immobile e Sansone. Ma e ti dico di più, meglio noi, no? Meglio noi. La prossima generazione con Icardi e Dybala è già pronta. Icardi, Dybala, la mela che è in panchina già in questa nazionale, e certo non stiamo parlando di attaccanti vecchi. E le madri argentine hanno questa caratteristica genetica. Però voglio dire, non è neanche giusto dire che hanno solo attaccanti, come a volte si dice, perché Mascherano, secondo me, è il miglior giocatore del mondo da mettere davanti alla difesa. Cioè, se già è bravo da difensore nel Barcellona, dove l'ha adattato Guardiola, io divento matto quando al mondiale fu eccezionale, secondo me, Mascherano. Garay e Otamendi sono discreti interpreti del ruolo di difensori. Certo, se tu nel momento in cui la squadra sta soffrendo perché il Paraguay esprime il massimo sforzo e tu probabilmente sei rimasto un po' sulle ginocchia dopo il primo tempo, fai un cambio dove tiri via un attaccante e un centrocampista e metti dentro due attaccanti sguarnendo ancora di più il centrocampo, te la sei andato a cercare. Secondo me è andato a cercare. Ieri si è un po' suicidato. Sì, eh. Sì, assolutamente. Questa sera, a proposito di panchine, c'è cioè la Colombia, Jackson Martinez, di cui abbiamo parlato per due ore, è in panchina. E con lui c'è Bacca, Muriel e Ibarbo. Io farei cambio anche con la panchina della Colombia, se fossi subito. Antonio Conte. Subito. Io penso che l'Argentina avrebbe bisogno di un CT europeo, perché penso che da sempre storicamente abbia appunto questa, in questi ultimi anni in maniera mostruosa, questa enorme qualità davanti, una minore qualità dietro, e quindi secondo me servirebbe un commissario tecnico capace di farli giocare con più equilibrio, perché altrimenti rischiano insomma, qualche situazione appunto di poco equilibrio che gli costa caro. Detto questo, sto parlando di una squadra che è arrivata in finale al mondiale, appunto, a implementare il mezzo contro la Germania, esatto, cioè, però secondo me non gli farebbe male, eh. È chiaro che quel potenziale offensivo è quasi uno spreco, cioè avere 6 così o 7 così, 8 così e poterne far giocare massimo 3 o 4, sì. Se ti inventi diciamo lo stratagemma tattico del 4-2-3-1 è veramente un peccato. Sì, davvero. Questa sera 23:30 Brasile-Perù, 30 secondi Paolo Condò, che Brasile vedremo? Ma credo un Brasile ancora un po' incerottato dopo la... Non so neanche come definirla perché ero lì allo stadio quel giorno. La botta del Mineirazo è qualcosa che verrà ricordata per sempre. E adesso, come sempre, il pendolo brasiliano, adesso sono andati a un difensivista, no? Dunga, che fa delle squadre molto più prudenti, che non potrebbero mai beccare 7 gol, ma che generalmente non ti divertono neanche in quei samba di calcio che sono a volte le partite del Brasile. Sono curioso, io tendenzialmente sono per il calcio offensivo, quindi Dunga non mi entusiasma. Vediamo se Neymar riesce a portare la sua straordinaria grazia, la sua straordinaria leggerezza fatta vedere in Liga, anche in Nazionale. Non dimentichiamo che Neymar e Thiago Silva a Belo Horizonte non c'era. Certo, grazie Paolo. Ciao Paolo, ciao a, tutti, a presto. Ciao Pier, ciao. Però c'era David Luiz, Pier, tuo sì, carissimo amico David Luiz. E io ero a cena tra l'altro con Condò e con altri colleghi dopo quella partita, quella di Belo Horizonte, e avevamo Aldo Cazzur, cioè, avevamo pienamente la sensazione che di aver assistito, insomma, cioè la chiarezza, io c'ero proprio come i bambini, perché quella partita lì rimarrà nella storia, insomma, forse più addirittura o comunque quasi come lo 0-1 del 1950. Io penso che Dunga abbia pagato comunque una sconfitta al mondiale sudafricano abbastanza sfortunata. E il Brasile-Olanda, lo ricorderete, col Brasile che era in vantaggio fino al primo tempo, stava dominando la partita, la stava controllando. Poi insomma ci sono stati degli episodi, degli errori individuali molto pesanti che hanno condizionato quella gara. Quindi poi torniamo al discorso che facevamo due minuti fa a proposito di Messi. Ci sono soprattutto nel calcio di Coppa e quindi inevitabilmente nel calcio delle nazionali, si lavora per 2 anni o per 4 anni e poi alla fine ti giochi tutto in 90 minuti o in 45 minuti e l'errore individuale di un giocatore può decidere il destino. Insomma, io sono convinto, quando parliamo per esempio di Prandelli, che ha fatto un lavoro eccezionale nel 2012 e poi probabilmente con un giorno in più di riposo, perché noi giocavamo il giovedì a Varsavia, sì, non vincevamo con la Spagna, ma non facevamo quella figura lì, capito? E quindi insomma poi alla fine, mentre nel campionato hai 38 partite, per cui se sei bravo, sei bravo, se non sei bravo, non sei bravo, poi nelle coppe siamo al solito discorso. Sì, coppe e tornei brevi si decidono tutti così. Pier, ti saluto domani, ciao, dopo il GR delle 14. Sì, ciao. Ciao Pier, traffico, torniamo, poi c'è il basket. Lionel Messi, estamos listos entonces, Lionel Messi para Argentina. Permite cantare esa palabra bendita llamada gol. Tutti convocati. Tutti convocati. Naturalmente non c'è cosa migliore che di portare il tricolore nella città del tricolore, e noi ci occuperemo proprio per quello. E in più credo che portare il tricolore, accettare il tricolore, ma soprattutto con la squadra più italiana di tutte, perché questo sarebbe anche l'altra grande favola. penso che la squadra che andremo ad incontrare sia contenta di incontrare noi che Milano. Ci siamo identificati non solo in Sassari ma in tutta la Sardegna, sentiamo ambasciatori di questo modo di essere sardo, ci inorgoglisce molto. Questa sera 20:45 inizia la finale scudetto del basket Reggio Emilia contro Sassari. Charlie Recalcati, buonasera. Ciao Charlie. Ciao, buonasera. A tutti. Ciao, finale giusta, sì. La sorpresa, ma giusta. La totale rivoluzione di questo campionato anarchico. No, beh, sorpresa sicuramente considerato quelle che erano le premesse di inizio anno, però per come è andata la stagione, ma soprattutto per come si sono svolti i playoff, sicuramente le due squadre che meritano di essere in finale. Reggio Emilia ha il vantaggio del fattore campo, sì. Sassari forse è la squadra sulla carta più forte, va bene così come cartellone per questa serie o no? Va bene così, sì, pensando comunque che giocando ogni 48 ore, insomma, quelle che sono così i pronostici o le cose sulla carta spesso vengono messe in discussione, pensando che proprio le due squadre che sono arrivate in finale hanno dimostrato che il fattore campo conta sì, ma non conta tantissimo, e che per tradizione, per storia dei playoff, bisogna saper vincere in trasferta per vincere il titolo. Sì, a me piace più Reggio Emilia di Sassari, se posso dire la mia, ma sono gusti personali, una squadra che mi piace da morire. A Charlie Recalcati ovviamente è mancato un passo, un tiro, un pallone, un secondo per completare il miracolo a Venezia, no Charlie? sì, ci è mancato effettivamente l'ultimo passo, eravamo molto convinti di poter arrivare a giocare questa finale, però devo essere molto onesto e riconoscere che Reggio Emilia ha giocato meglio di noi, soprattutto le ultime due partite, e quindi ha meritato di essere in campo questa sera e noi a guardarli. E certo, la rabbia cresce, eh? Finale senza Milano era... Finale aperto. Insomma, tu cosa dici? Anche Venezia, Venezia-Sassari, insomma, 50-50 con la possibilità veramente, no, non miracolo, di più a Venezia. No, sarebbe stata sicuramente una finale suggestiva, però d'altra parte togliamo assolutamente la suggestione a quella che è, insomma, Reggio Emilia ha meritato, Sassari ha meritato, quindi godiamoci questa finale inedita, avremo una squadra campione d'Italia per la prima volta e quindi sono fatto estremamente importante per tutto il nostro movimento, che è bello così, insomma, perché poi alla fine è bello quando non vincono chi era predestinato a vincere, proprio perché crea interesse e proprio perché almeno anche l'anno prossimo, quando riprenderemo, tutte le squadre che dovranno un'altra volta dare la caccia e essere all'inseguimento di Milano sapranno che una possibilità è una che si può fare. L'inseguimento a Milano sembra abbastanza ai facile. Piedi d'argilla, ma insomma, disastro. In 30 disastro secondi sportivo. Riusciamo a farci spiegare da Charlie Recalcati perché, dal suo punto di vista, occhio molto esperto, Milano ha fallito. Io so che è difficile, in 30 secondi, però per capitoli. È molto difficile perché bisognerebbe essere dentro e quindi sapere le dinamiche, quelle che possono essere state, quello che ho visto io, seguendo anche in modo interessato la semifinale, mi è sembrato di vedere una squadra molto, molto preoccupata, una squadra obbligata a vincere, che ha giocato soprattutto la semifinale rincorrendo sempre, provando anche delle risorse, soprattutto in Alessandro Gentile, un giocatore capace di trascinarla alla bella, però direi proprio tra le due squadre la differenza di serenità. Sassari, che giocava molto leggera, che giocava serena anche del fatto di avere già battuto in precedenza Milano. E Milano con una scimmia sulle spalle, pesantissima. E Milano che chiaramente poteva salvare la stagione solo vincendo quella partita, invece quando è abucato. Così, poi dopo ti manca sempre qualcosa. Grazie Charlie Recalcati. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie. Eccoci qui, chi è? Ma eccomi qua, non mi avete... Oh, Serse! Ciao a tutti, non mi avete interpellato, no. Ma a prescindere... Sì, perché ci hai chiamato? Ma oggi ho voglia e sono orgoglioso di fare il pronostico di questa finale di basket. Oh, stavamo parlando di basket, allora, sentiamo il pronostico di Serse Cosmo. Allora, a prescindere... prescindere dai valori in campo, sì, sono assolutamente sicuro che vince. Che vince? Che vince chi? Che vince la Simmental. Ma no, la Simmental non esiste più, anni 60, sì? 70, sì, no, assolutamente. Io facevo sempre merenda con un panino di frittata, pecorino, salsiccia, molto leggero, devo dire. No, sì, comunque sì, la Simmental non esiste. Chi vince? Chi vince? Chi vince? Stiamo chiudendo, chi vince? Allora vince l'Ignis Varese. Ma non esiste neppure questa. La non es- Cantù. Ma neanche la Foggia, giocano Sassari, Reggio Emilia, Serse, chi vince? Ah sì? Sì. Ma a me piaceva tanto la Simmental. No, non vince la Simmental. Arrivederci Serse. Era ovviamente Andro Mercù. Noi ci fermiamo qui, domenica torniamo 17-19, domani Carlo Genta più Luigi Pardo, dopo il GR delle 14. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato a questa puntata. Ciao a tutti. We'll be right back.